forse va benissimo. Chiara la voce. Così va bene. Hola, hola. Ehi, Afra, va benissimo. E allora già funzionava pure lui. No, perché ce l'avevo fermo. Ho detto, siccome ce l'avevo in più, adesso provo ad adattarlo nel Superstar a vedere cosa, come esce. E io ne sto cercando uno, ne sto cercando, fidanzato. Come va, ma sta telefonando Don Raghi su di noi, che vuoi, sto apparecchio. Ma mi ha detto, se lo abbassi almeno di 50 euro te lo prendo, ho detto no. Prezzo è quello, come l'ho pagato lo sto dando. Se vuoi è quello, se no. Ma cioè, non mi sta chiedendo nulla, quindi non mi dà fastidio né nulla. Ce lo vuoi è quello lì. Se no, ciao e arrivederci. Ma è troppo caro, ma hai visto che hai in internet? Che viene già di quelli lì preciso, c'è anche più caro. Quindi, se vuoi, è quello lì il prezzo. E se non lo vuoi lascia, no, dare di meno, capito. No, fra, così l'ho pagato e così lo do. Gli do anche il cavetto di cosa, anzi, ve lo voglio regalare, tanto. Noi che siete zio, che mi fruttano. Ma c'è gente di fuori o gente di Sassari? Gente di fuori, gente di fuori. Fatelo pagare bene allora. Per il trasporto mi devi mandare. Anche il minimo è 50-30 euro di trasporto. Il peggio devo guardare quanto ha peso. Quindi devo chiedere a vedere quanto è appeso, se pesa più di 2 kg, mi sa che se di 30 euro a filo. E una trentina, ma dopo se non lo utilizzi, tu cosa ti ne fai? Non ne fai niente, già non vieni su. Poi quando una cosa non si usa meglio vendersela, io la penso così, poi ognuno fa quello che vuole. Stavo usando, lo accendendo, lo sto accendendo per ascoltare cose. Per lasciarlo, lo sto sempre accendendo, per lasciarlo fermo. Sono mi rovendo. Tanto. Già. Più che altro qua ci sono tutte le frequenze. Ecco cosa è. Ma è fatto, la devi fare. Va. No, se mi un ricevitore e andava per un attesi, se vuoi ascoltare quelle frequenze lì. Io il ricevitore l'ho quasi trovato. L'ho detto a mio cugino a Genova. Ed è andato al mercatino, dice che ne ha trovato uno, del ricevitore, e si era pigliato Baedo. Ah, che perché si è pigliato Baedo, ma non fa me. Poi mandalo a me e ti mando i soldi di quanto l'hai pagato e me lo mandi. E adesso vedo. A ricevitore di trovi a pochi soldi adesso. Vai sul sito Radio Amatori e ne ho visto un paio lì, anche della Kenwood, capito? Quindi fanno ascolti tutte le frequenze. Vedi, tutte le frequenze fa quello lì, i telefoni anche. I cosi, gli aerei, navi, tutto fa. I telefoni non li piglia più, i telefoni non li prende, è possibile. Hanno cambiato tutto. E c'è che questo qua prende anche i telefoni, prende. Certo. Sarà di Teddo. Mi sembra molto strano, perché adesso vanno tutti in digitale. Sì, vanno tutti in digitale, vanno. Perché c'è la Zendio? No, questo molti telefoni li prende. Anche quelli fissi. E saranno i telefoni vecchi, vero? Ma io sto parlando di un altro genere di cosa, Otto, capito? Non di quelli. Niente di compreso. Già ti ho capito. Mettere un mio là. Buonasera, Antoni. La fibra, nella fibra non entri. Oh, capito. Ma neanche su quelle altre frequenze, adesso vanno in digitale, non li ascolti più. E gli amatori, un bel benissimo che vanno in digitale. Per lo più tutti, guarda adesso. Adesso tutti per lo più in digitale. Oramai. Con il computer, attacca il computer e ci va a tutta la giura, se va. e che non lo gioco. E cosa faccio tu attaccare al computer? E fa tutto lui. Allora tu c'hai la stazione lì, col computer te ne vai un'altra casa e trasmetti dal computer con la tua stazione, capito? Lo so, anche sulla 27 lo puoi fare. Capito, oramai. Per poi dire, ma te no, che non qui gioco. So che campagna è trasmetto con la mia stazione, trasmetto la campagna. Sì, anche così è. So che ne devo buscare le cose per metterlo nel computer. Devo buscare. Bisogna che glielo chieda, vada a cosa delle ambulanze là. E glielo chiedo. Prova. Ci stavi cercando un MB più 4. Ma io seguo della tendinizio, un MB più 4. C'ho l'MB più 5 che l'ho messo a posto e funziona. Non mi piace, l'MB più 5 a me non mi piace come tipo di microfono. Preferisco più l'MB più 4. Io ho il modello vecchio dell'MB più 4. Ragazzi, da Tony mi compiate. Capito, ed è un casino. Chi è che vuole entrare? Avanti. Sì, da Tony, eccomi, buonasera ragazzi, se la mi copiate come state? Ciao Tony, buonasera, ben ascoltato. Non so se ci ascolti, dove stai modulando? Viale Dante, San Giuseppe, in movimento. Vabbè, rapporto di segnale 5 più 10 qua, alla mia stazione. Tore, non so come l'ascolti, avanti. L'ho copiato, sì, ma non ho guardato. Avanti. Vai avanti, l'amico Pertore Squalo. Ah, tu mi dicevi comunque bene, vedo. Rapporto per me 5 più 20 qua, zona in modulazione a Rosello Alto, città Sassari, tutto qui. Tore, non so se ti copia, Toro copi? 8 e mezzo lo copio, 8 e mezzo di segnale come radio 5. Perfetta, buona. Allora, rapporto per te, datore 5-8 il tuo rapporto di segnale, lì alla zona dell'emiciclo. Oh no, ma io vi copio bene, era per salutarvi, per sapere come stavate e niente. Quindi sei in barra mobile, sì. Allora, già stai arrivando bene qua. Io l'ascolto bene, tu. 5-9 più 20 qua mi sta arrivando. Ultima modulazione, va benissimo. Ok, vai tu. Ia, va bene. E adesso mi devo controllare, stazionare con l'antenna, con la caramista. Mi devo controllare, mi devo fare l'attacco, mi devo fare e provarlo a vedere se c'ha stazionare con l'antenna lì. E così prova più di... Quella che ho io stazionare non ne ho. A parte che sono sotto accordatore, sotto il rosmetro e va bene, 1-1 neanche si muove. E va benissimo, diciamo che l'antenna stazionaria non è là. Buonasera. E buonasera anche a lui, avanti. Ciao Tore, via Franco, ogni tanto esce dall'uovo, esce. Ciao Tino, buonasera anche a te. Ogni tanto mi stavo spazzolando, ho detto, adesso accendo questo superstar a vedere se funziona ancora, ho visto che già sta andando. Sì, è una bomba. A parte il bip mi sta rompendo la colonnina, però del resto va bene. Ciao, fra, ben ascoltato. Vai Tore, grazie per avermi fatto entrare. Sì, ma figurati. A me l'unica cosa che mi dà fastidio è questo bip, infatti devo trovare il metodo di studiarlo. Prendo una pinza e tagli. Infatti lo elimino, già lo so da dove si elimina. Sì, esce più forte, sicuro, senza il bip. Questo qua c'è la di origine, il bip, capito? Questo è vecchia era, diciamo. Sì, già va benissimo. Va benissimo, e vabbè ti, come andiamo? Bene? Appena rientrato al lavoro, quindi adesso vado a docciarmi, ma è mia abitudine accendere la radio prima di fare il tutto, in maniera tale che poi sono già operative. Niente di che, si tira avanti, dai. Aspetta che facciamo entrare l'amico che era in macchina, il nostro commento di Giamma. Avanti l'amico che sei in macchina, si deve darsi spesso. Ma io sinceramente lo ascoltavo basso basso, non so dove stavano durando. È un po' negativa la mia zona, in confronto alle vostre che siete un pochino più alte. La zona mia è più alta. Oddio, voglio provare un attimino, visto che sei in zona, voglio provare il Magnum a vedere com'è valida a te. Quello mio, sì, provalo, vai. Secondo. Vai tranquillo. Cosa stava parlando, Tino? Cosa? No, l'ampazio, ma l'ampazio è virume. Se sei in AM, guarda che forse sei in FM però. Infatti si conforma in FM. Ma vai questa radio, va bene? È la meglio l'altra. Vabbè, questa è il microfono originale. Veramente? Ma andrebbe meglio l'altra, come modulazione molto più squillante, molto più presente, aggressiva e tutte cose. Questa non è fatta andare. Aspetta, c'è il MTG al minimo, vedo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, un attimino chi sta chiamando, stiamo facendo una regolazione, abbi un attimino di pazienza e poi ti facciamo entrare. Vai, Fra. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso già ci sei come a radio, adesso è andata a migliorare. Perché c'è quel MTG al minimo, comunque va bene. Sì, a voglia. Chi era l'altro? Daniele, tu sei? No, sicuramente è Gianni. Ciao Gianni, buonasera, avanti. Buonasera a todos. E allora, che si dice? Sembra un vendisi qua. Ciao già, scusa, ma non ti avevo capito che c'era Franco in sovrammodulazione. Non ho sentito né uno né l'altro. Vai già. Non ti preoccupi se... sono stato io che non mi sono accorto, vabbè, sono entrato così perché eravo appena acceso, vai, non mi ero accorto che stavate regolando, se no non mi sarei permesso, vai. Cavagliata. E chi c'è in questa ruota? Finalmente, si sente un po' di gente. C'è anche Tore Squalo. Cappa. Avanti Tore, andiamo bene, andiamo. Il più bello di cucino ci può, buonasera già. Ciao a tutti due, allora degli zonchi entri. È un impegnato dall'altra parte, Eto. Stavo finendo un contest. Andate, già fai bene. Un po' di gente stasera, sì, ti visto là, dopo di tanto. Ma adesso col calore tutti qua dentro. Poi non è come quando piove, come le lumache. Ma adesso entrano tutti perché vanno in giro, anche macchine e cose. L'inverno non ti fa venire a fare nulla. Invece l'estate ringalluzzisci. Come state venendo a mare? Ragazzi, io sono entrato a salutare, dai, mi ha fatto piacere ascoltarvi. Adesso vado a docciarmi perché mi voglio rilassare un pochino. Magari se coincide, se ne avete voglia, più tardi siamo operativi. Ma adesso devo andare a sciacquarmi le Wallace. Vai, sciacquatele. Kappa. Ciao Tino, vai. Mi ha fatto piacere sentirti 2 minuti, poi se vuoi poi magari ci sentiamo dopo. Avanti Fra. Qua c'è da riprendo io. Ciao Tino, a dopo magari se coincide. Buona luce, buon tutto, buon carica se lo fai. Tino, fa più tardi, ciao, riprendete la ruota, vai, rilanciamo a Tore che era in disparte, aspetta i saluti poi vado via, dai. Ciao Tore, ciao a tutti. Ciao Tino, ci risentiamo alle prossime, ok? Fammi bene, buona luce. Ciao, vabbè, ma che fai, sì? Beh, senza dolori. No, la stamattina ho preso a fare palestra, dai. Sto facendo palestra e grazie a Dio si stanno rimettendo a posto, dai, piano piano. E ho fatto un bel po' di esercizi stamattina, cosa che quando ho finito mi è venuto cappuccino, non ero più abituato. Se sì, no, anche fa movimento che non ti fanno male più le ossa. Ma per il capogiro gli appasso. Mi hanno detto che è normale, la prima volta è normale, mi ha detto. Abbiamo fatto un esercizio per rassodare tutto il corpo, capito? Abbiamo fatto esercizi di respirazione, di contrazione dei muscoli, della faccia, degli occhi, della fronte, delle gambe, insomma un po' tutto il corpo abbiamo rafforzato. Sì, è così, sì, purtroppo è così. A parte, signor Franco. Elia, Elia, oggi cosa stai utilizzando? La, il K? No, non ce l'ho più il K. L'hai venduto? Sì, sì, l'ho venduto. No, questo qua è il Cobra. Perché te lo sei venduto? Era fuori da, dallo sportello, non ci stava dentro e era in più, dai. Poi non mi ispira, mi piacciono più i baracchini a me, sinceramente mi piacciono più i baracchini degli HF, perché escono più tranquilli, più buoni, non lo so, è diverso, anche la ricezione è diversa. Vabbè, se non utilizzavi è fatto bene a darlo. Vabbè, ma poi adesso con la gente che c'è, cosa ti va a fare chi fra? Quando hai due soffizi e truppi, io ne ho quattro, immagina. Ma in definitiva non ne fai niente averne tante, bastano due belli che funzionano bene, tutto lì, vai tu. Ma infatti, bastano due pure, a voglia, ed è così, tanto, farai gli antichibbe. Appunto, io ti sento la radio un bel basso, se tu fa vedere la voce bassa, devo sollevare il volume e poi hai tra Gianni e mi spacca le orecchie. Te l'ho detto io, adesso alza. E avanti, no già, lo sentivo basso, ero io, buh. No, anche io lo sentivo basso, fra. Basso di un radio. E poi da quando ha cambiato apparecchio non è più lo stesso. Prima già esce a voce. Bobo, ma cosa c'è tra te? Gli apparecchi che c'è tra te, Lettore? L'899 dell'Inter. Ma carindai, a me non mi piace nulla. Vabbè, i gusti sono gusti, no già. Ma dice che faceva TVI con l'altro, quindi non lo può usare, che l'ha libriato. Come TVI? Sì, sa signore, non giusto, da 500 metri, dice che io lo interrompiamo dalle visore. Ha detto, ma che cosa c'è l'impianto dell'antenna? Ha detto, dirigiamo io, dirigiamo una cosa. Prima controlla a me, se a me non mi acciappano di non disturbo. Se si pina una bella contravenzione che vado all'impianto un po' male. Ma cosa si chiede? Gli fai una bella base nel bagaglio. Forse è così. Ma scusa, scusa un attimo. Nel tuo apparato disturbi? Nulla, neanche nei intorni disturbo. Soltanto che sta a tronza disturbo. Dice che disturbo, bisogna vederlo. Anche se ci interrompono dalle visore, ma che da usare? Facciamo un tecnico a farci raccontare l'antenna. Ti fa l'antenna a buttare. Sicuramente il miscelatore bruciato. Vabbè, l'importante è che tu non disturbi il tuo apparato, poi fregatene degli altri. Ma che gli ho detto io alla distanza dove lei non ci arrivo, signora, a disturbarla. Quindi non ci sono lamentati gli altri del coso che ho chiesto e mi hanno detto, dice che non disturbo e non me ne viene lì a rompermi le balle a giudizio. Cazzo, tanto è pur caccione a farvi belli. Ma fregatene, oi, per carità, vai già. Sempre meglio che ti rompi i cazzi, non ti lasciano mai in pace. Come vedo un'antenne, sei fritto. No, io non disturbo a nessuno. Tanto mio va benissimo, ho fatto le prove, tutto a posto. Ti dico di non provare. Cos'è il subito? Bra, attaccato sì. Io? Sei attaccato? No, negativo già. Vabbè, poi siamo troppo vicini. Perché ti sento appena rauco, non è limpida la radio. No, non sono attaccato. Tu ci hanno col K. Ah, ecco. E allora allontanati appena dal microfono, forse sei troppo vicino. Così bene va, 1, 2, 3. Ma è il passaggio più lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così sei di lusso. È troppo vicino al microfono, vai. Già, va bene, andare, vai tu. Sì, infatti usci, non so, è lontano da vedere. Ecco cos'è, per quello mi senti più basso. No, adesso già sono a 40 centimetri dal microfono. Perché sono metri amplificati, capito? Devi parlare in lontananza, sennò magari va... proprio colpo della uccidine, tutto lì. Sì. mi devo bere mezzo litro di bianco. Allora, ecco, stavo dicendo, ma quei microfoni dell'MB più 4 non li fanno più? Fusaro ce li ha questi qua, so che ce li ha Fusaro questi MB 4. Vabbè, beh, funzionano. Cosa potrà tenere io? Non l'ho preso da lui, da loro. Cosa potrà tenere? Eglia. Da portare su, me l'ho dimenticato. Dove ce l'hai dimenticato? In campagna ce l'ho attaccato all'altro baracchino, però non c'ho più antenna, ho buttato, ne ho tolto tutto da lì. Che antenna avevi messo lì fra? Ma te la metti già? Chissà che si trucca. Che cosa sarà te la si trucca in lui, boh? Cazzo di vite si è fatta, che allucinante. Vabbè, no, ci avevo piazzato poi la boomerang, ma non rende niente. Arrivo basso a sasseri con quella. No, già c'è l'antenna da mettere giù, ma non è piazza. Lascio qua, quando c'è buio, amico. Muro da qua già. E intanto quando sei giù, devi fare lavori, campagne e cose, non hai tempo di fare queste cose. Vabbè, sarebbe magari quando l'estate andate lì a stare lì, allora va bene. Sì, magari l'estate già a piatto l'antenna, ma d'inverno non c'è nessuno, di solito d'inverno non ci scendo quasi, scendo ogni tanto, capito? Vabbè, lì c'è una zona loffia, deve essere coperta come zona. No, è proprio in un fosso, non prende, ma neanche dalla macchina esce. È strano, magari c'è qualche copertura, qualche cosa che lo ostacola le onde. Perché è strano che da lì, perché io pensavo invece che fosse più in alto di carica, capito? Allora lì per funzionare bene prendo tutta la costa di Coso, da... via Milano tutta quella zona la prende benissimo, e poi dalla parte Porto Torres e Platamona comincia ad andare basso il segnale, non arriva, capito? Ci vorrebbe un amplificatore, un'antenna un bel alta, forse solo così, perché è proprio in un buco, capito? Poi già l'hai vista dove? Ho capito, vabbè. Ma quella là poi messa a posto l'avevi, quella... quella che era fatta bene. Cosa? Chissà che era di Gastone, a posto l'ho messa pure. La giù rampata, la giù fatta tutta a pezzi. Ma cazzo, come l'abbiamo sollevata, si è truccata, non ce l'ha fatta perché praticamente la parte di sopra ha sbilanciato e come ha sbilanciato in avanti si è truccata. Truccata in due, vabbè. Questa qua va bene, questa sto usando io qua. Vanno bene queste antenne già. Vabbè, non è a livello sempre, ripeto, della Matova 5, perché la Matova 5 e la Matova 1 non ce n'è. La LEM, la mia va benissimo lo stesso. Questa mia è di lusso, già l'ho vista fra come te. Bell'antenna quella lì, sì. Vabbè, queste sono antenne che devi piazzare quando c'è molto vento. Perché se le piazze dove c'è un bel vento si spettano queste antenne. Se non le fai il rifatto non l'ho fatto io, si vadono in due. Almeno nelle aggiunture devi mettere un pezzo di tubo messo da sopra, anche con il polietilene spasso, attaccati con il polietilene spasso di modo che non si muova, poi da voi non avrai più di montare, guardate chi su, se la fissi bene poi non la puoi più svoltare. Ah, questo l'ho pensato io. Me l'ho pensata da solo, però ho fatto un bel lavoro già, e va benissimo, non c'è... Abbassa ancora che stai tutto gracchiando. Ancora? Sì, perché sta scaldando adesso. Guarda un po'. E adesso va benissimo. Sono belle antenne perché fuggono, vanno bene come portatore. portata però il materiale è scadente, per il prezzo che l'ho pagata quell'antenna, mi sento io, non sarei male per niente. Eppure quando sono uscite un po' di gente diceva erano ben buone queste antenne. E se no la Ringo, mamma mia che antenna brutta che ha. La Ringo pigliaeva, è come ti pigliaeva a cercare stazionare là in picco. Antenna brutta quella lì che ha. Quella è un'antenna che se magari si sa isolare bene riesci a tenerla, ma se non la isoli come si deve entra e va a tutti gli bassi. Ma non va a cubare, che non va a nuda. Chi la faceva la Ringo? La Sirio? Ella. Scappa. No, non sono antenne che sono mai andate così, ma tutti si sono lamentati anche sui forum. Cioè erano dei bidoni di antenne quelle lì. No, la Matova 5 non la fanno più, anche la Matova 1 c'è più in circolazione. Quelle sì che erano belle antenne già. Diciamo che adesso c'è quella Grazioli che praticamente la fanno come la Mantova, solo che il materiale è più buono della Mantova, la parte dove attacca il piede tutto d'acciaio, bulloneria tutto d'acciaio, costa qualcosa in più, però questa Grazioli la stanno passando tutti. La Grazioli è una bella antenna, già l'ho vista Giacomo. Ha un bel di bulloneria, ti asciugi quando vedi tutti i bulloni che va. 180 euro costa, anzi 185. Prima la Mantova, capito? E poi si sono staccati e lo stanno facendo loro, a conto loro. Scusa un attimo già. Già detto già che vi siete soprammodulati tutti e due. No, non me ne sono accorto. E cosa ti stavo dicendo? Che quelli che fanno la Grazioli adesso, prima lavoravano alla Mantova, quindi sono operai che conoscono come è fatta la Mantova, l'hanno fatta precisa, però l'hanno fatta con materiali più robusti. Hanno messo tutto l'acciaio, le parti della Mantova che si arrugginivano dove si attacca il PL, quella roba lì, l'hanno fatta tutta l'acciaio. Ma quale fa anche altre frequenze fa? Questo non te lo so dire, io penso che sia da 26 e qualche cosa sino a 30, boh. Se ci vuole un gozo, vabbè, già viraggio. No. Già esci, beh, esci. E costa un bel po' costa. Vabbè, ma sono antenne che una volta che le metti ci rimetti in ghiaccio da voi, perché quelle non prendono stazionarie, perché sono in acciaio, capito? Quindi stazionarie non se le attaccano. Oh, vanno bene, a meno che sia il cavo, ma l'antenna di per sé è buona come antenna, l'hanno tutti avanzata chi ce l'ha. Sì, infatti. Fate così, quella è spessa, ecco c'è un po' garito. No, una volta chiaramente te ne dimentichi di Gavannina. C'è uno, non so se l'avete mai visto, su TikTok mi pare che sia, che fa, che trasmette in diretta con un apparato portatile di vecchia era, un Lafayette 23 canali portatile, e parla con l'America, con 3 o 4 facce mi pare, parla con tutti, con l'America, lui parla molto bene l'inglese questo qua, fa la chiamata in inglese, se gli rispondo subito, lo fa tutto in diretta, dice ragazzi io sto usando 4 facce dell'apparecchio, non sto usando altro, sono sicuramente in montagna, in altura, non lo so dove sia, però cazzo, alla prima mi rubiglia. Sicuramente in montagna, ci vedi, infatti è così, c'è un portatile, esce benissimo, esce, lì è tutto aperto, in montagna, gli altri greco che gli ha tutto canto. Sì, di quei portatili tutti in ferro, quelli di vecchia era con l'antenna lunga, ma lui stava usando l'antenna esterna sicuramente, però essendo un portatile 4 watt, catta, parlava con l'America, con l'Inghilterra, ha parlato, insomma un po' di posti, e tutti lontani, Oh, vabbè, bisogna conoscere l'inglese, buro, catta. questo è bravissimo parlando l'inglese, sicuramente c'è stato in Inghilterra, non lo so, però lo parla come l'italiano in scioltezza. Oh, vabbè, ti sa parlare l'inglese, riesce a farci sentire tutto. Oh, hanno fatto vedere il dubbio di Abanova, come ti sono fatti. Lubezzi, chi si offende? Ah, che stanno facendo con la rete per le pilli. Te chi sono? Un tappabucchi, no? Ma poi poco tempo si fa, si adorra e tocca di nuovo a lasciare tutto. Guarda, il fatto è che lì si hanno mangiato le denari a regione, si hanno mangiato un sacco di milioni, si hanno mangiato per non fare la rete nuova, tutta la cosa nuova che in un anno l'avevi fatta e dimenticata e ti era allacciato con, avresti aggiustato questa qua anche, l'avresti adottata e quando ci faccia una vai l'altra, invece no, già ne mangiato di denaro, un sacco di denaro di la regione già ne mangiato. Allora dottor, la scusa che per non dare disturbo ai cittadini, per non deviare il traffico eccetera eccetera, sono lavori veloci e duraturi, così hanno detto. Che non escano da culo, cazzo, c'è da denunciarli, c'è quelli lì, c'è da denunciarli, perché ci hanno mangiato un sacco di milioni, ci hanno mangiato, hanno fatto lo dividendo, ci hanno fatto. No, che diceva comunque, già, ma tu acqua ne hai? Cosa? Che qua non c'è acqua. Io vabbè, c'è l'autoclave, fra, io non ho mai problemi di acqua perché c'è l'autoclave qua. No, che siamo senza Eva, no, non c'è ragione, no, c'è un buco io, però maggio viene una pazza e ogni tanto mi viene questo coso, va in affia e lo uso per i gabinetti. Non si ribò più a Baida, c'è andata l'acqua che era ore 4, non è più tornata, va domani a mangiare, arrivi, chissà cosa ti offendi. Ma stanno mettendo le lenti, dove ci sono le pinte, ma non ho fatto vedere, la stanno fatto vedere la cosa, la stanno girando le scatole, dici già ne mangiando un paio di milioni per non fare la condotta nuova. Ma guarda, c'ho Zappurelli. Allora, neanche dalla Zappureggiani, neanche dalla Zappureggiani. Da Davvalli, una denuncia insieme a Davvalli, che ci hanno mandato un sacco di milioni, ci hanno fatto il dividendo, ci hanno fatto a fine anno, ne hanno preso, hanno fatto imparire i milioni. Allora, ma i bacini, miliardi di là. No, tra poco me li devo migliare. E no, passando ora. E allora, amico, comincio a lasciarvi, vi saluto. Buona cena, cara, devi fare tutti e due. E ci risentiamo magari domani, alle prossime. Ok, ragazzi, statemi bene. Ciao, ciao, dove ci sentiamo, buona serata, ciao, fra, che oggi dove ci portiamo preso più, che si sta lamentando, pure scendere. Alle prossime, ciao a tutti. Ehi, ciao Gianni, dai, stavo per chiudere anche io. Ciao Tore, ciao Gianni, buon carica, buon tutto, che devi ascoltare in prossima. Saluto eventuali SWL che sono in ascolto sicuramente, però è quel ripeto, ciao.